to the Lord a new song. Sing, sing, sing. Canta Iaunari, Cantuveria, Canta, Canta Iaunari, Canta Iaunari, Lur Gustia, Canta Iaunari, Canta Iaunari, Canta Iaunari, Iaunari, Canta Iaunari, Canta Iaunari, Cantuveria, Canta, Canta Iaunari, Canta Iaunari, Lur Gustia, Canta, canta, Iaunari, canta, Iaunari. Benedicite nomini eius, benedicite nomini eius, adiciate diem de die, salutare, salutare. Canta, Iaunari, canta, Iaunari, Cantuveria, canta, canta, Iaunari, canta, Iaunari, Lur Gustia, canta, canta, Iaunari, canta, Iaunari. Cantate, exultate, et salite, exultate, et salite, cantate, salite, exultate, salve, cantate, cantate, Domino, cantate, cantate, Domino, qui, via, via, via, via, via, via, via, via, fecit, fecit, cantate, Domino, canta, Iaunari, Cantuveri, canta, canta, Iaunari, canta, Iaunari, Lur Gustia, canta.